quando la, diciamo, la l'intensità del volume dalla radio, perché non, beh, sto guardando i picchi in alimentazione quando muto, ho capito, quindi voglio vedere se sto arrivando saturo e magari anche se poi il segnale com'è, se ha picchi positivi o va in negativo, rimane fermo. Guarda un po' Gianni, ora, e senti un po' qua, 27075, operatore da Final Mike, Nord Sardegna. No, no, la lancetta rimane fissa da me. Rimane fissa a quanto già? 9.15. E allora abbiamo abbassato il segnale. Beh, adesso sono di nuovo con la Grazioli, eh? Adesso sono di nuovo con la Grazioli. Abbiamo abbassato il segnale. Vabbè, ma non ci fare caso, perché questo è un po' rimiso, capito? Questo apparecchio, sto usando il Ruiz. Ah, ho capito, va bene. Va bene, va bene. Tu qua sei 9.20, eh? Andare. Se come esco dalla macchina esco da casa, ma te l'immagino. Positivo, già. Io non essere, io non voglio dire, però posso dare i segnali giusti a qualsiasi persona, segnali giusti a qualsiasi persona, almeno qua in questo mio QTH, perché diciamo che è così. Io segnale giusto te lo posso dare solo col Galaxy, perché quello è perfetto. Sì, positivo. No, vabbè, ma il segnale non mi interessa, mi interessava solo se dava dei picchi negativi o in positivo. E se la radio, era bella oppure doveva fare qualche modifica. La radio è chiara, picchi positivi non ne ha, è fisso. Va bene così allora, va bene così, dai. Va bene così. Quindi Gianni, ti è arrivata? Sì, sì, sì. Carlo ha telefonato al venditore e da sera è arrivata, capito? Che vuol dire che magari non l'avevano ancora rimandata indietro. Perché è strano che la rimandino al mittente. È molto strano che la mandino al mittente già, quindi non... non lo so il motivo perché ti è uscita quella cosa nella spedizione. Ora te lo dico io il motivo, suppongo che sia per quello. Allora, c'è stato il nastro di Bartolini che praticamente l'hanno nastrata con il nastro Bartolini e l'antenna risultava praticamente dove in un certo punto c'era l'antenna a flette, loro hanno pensato che fosse rotta, capito? Perché si è piegato il cartone, quindi non l'hanno mandata sicuramente. Già, ma cos'è toccato? Nulla. Mi sta arrivando molto saturo, eh. Saturo adesso? Yes. Forse perché stavo parlando da vicino. Sì, sì, sì, allontanati un pochino già. Mi ha avvicinato il microfono, va. E comunque è per quello, perché a metà antenna c'era una piega, no? C'era il cartone piegato, quindi loro hanno pensato che fosse rotto e non hanno mandato per quello. Lo vedi che c'era qualcosa? No, a me mi è arrivata, in pratica ce l'avevo da sabato era di là in SDA e stamattina me l'avevo messo in consegna e mi è arrivata. Infatti ho raggiunto il corriere e me l'ho presa. Cioè è venuto qua a casa, l'ho raggiunto al cancello e l'ho preso, l'ho ritirata. Ah, bene, dai. Interessante che sia arrivata dove doveva. Perché ti lasciano un po' perplesso, no, queste spedizioni. Sì, già è un po' l'ansia che viene a noi quando c'è la spedizione, perché sappiamo che non è gente affidabile. Però non sono tutti così, dai. Mi scorrevo stamattina era molto in gamba. Si ha pagato. Vabbè. Che vuoi che ti dica, però ce ne sono tanti che se ne fottono un bel, il bello che mettono anche filmati su Facebook, c'è questa tipa che ogni volta ha da dire sulla gente che riceve la roba, ui. Sì, già, ci sono i benefreghi come in ogni lavoro, ci sono i benefreghi, però qua diciamo che sono un po' tranquilli, in continente sono abbastanza scalmanati, vabbè, ma in continente non c'è tempo neanche di respirare, tu prendi i corrieri di Amazon, guarda, poverini. Lo so, sì. E quindi ma non potete entrare la sera, io non ce la faccio più entrare di sera, io dopo cena, perché la sera non ce la faccio più. No, la sera non c'era nessuno per due giorni. Poi ieri è entrato Roberto Quadrato. Positivo, no, io la sera, diciamo la sera dopo, prima di cena, del sabato pomeriggio non ce la faccio più entrare, io ce la faccio così mi dopo cena siamo alla grande, possiamo trattenerci fino alle 10, alle 11, non è un problema, però prima per me diventa un casino. Lo so, tu sei, tu impegni lo stesso, non è che puoi trascurare le cose tue, si modula nell'arco, diciamo, quando c'hai il tempo, non è che puoi modulare nei momenti che devi fare qualcosa di più importante, si dà la priorità alle cose. Certo. Ovvio. Va bene. E beh, come ti trovi con l'antenna? Com'è, come effetti c'ha già con l'antenna della macchina? È più carina, vero? È un bel migliore, è molto carina, è molto più delicata, quella rimane più rosa, è troppo grossa. Non lo so, c'era un bip. Avanti, buonasera, vuoi entrare qualcuno? Avanti, buonasera. Davino, ormai è in compagnia di Gianni. Niente, non c'è nessuno. Ma l'hai messa fissa già oppure con la base? Ah no, mi hai detto che c'aveva solo la base magnetica, non si può togliere. Scusa, mi avevo tracciato questo particolare. Quanto è lunga la valigia? Un metro? No, 1,60 dovrebbe essere. Ah, positivo. Vabbè, non è neanche. Magari però ha lo filo più fine della Turbo 2001. Molto più fine, più elastica, più malleabile, capito? Si piega molto di più, è più leggera come antenna. E quella non è che. Eppure la calamita, non so se te ne ho parlato, non riesci a staccarla quasi, è un bel forte. Un bel forte la calamita, capito? Sì. È meglio. Guarda, torniamo al discorso dell'altra volta già. La 2001 è una concezione di antenna di 20 anni fa. Di 20 anni fa, almeno credo 20 anni, 17-20 anni. Anche questa qua si dice che è un'antenna un po' datata, ma magari l'hanno rivoluzionata. Poi se ne stai dicendo che il guadagno è migliore della 2001. Io guarda, poco fa ti ricevo benissimo, vedi, si sentiva che il movimento, però niente di male, tutto positivo e meglio così. Sì, è una bella antenna. Il problema è che mi ha dato un po' di mattana, vabbè, stasera, perché se andavo a affittare non affittava, ne usciva il piede, non fanno questa antenna qui, io non è, guardavo la filettatura c'era, e lì dove l'ho messo l'apparecchio è un po' problematico toglierlo, capito, mettere il piede perché ti devi inginocchiare perché è sotto, capito, quindi ho dovuto fare un po' di manovre strane, ma gliel'ho fatto, sì, a forza di malagrana. Se no andavi a comprare il piede, la tusare glielo mettivi, noi che, cioè quello era tutto l'ultimo degli estremi, ma cioè volendo potevi fare una cosa del genere, solo che c'hai la foga di provarla, capito? Hai la foga di provarla, quindi lo puoi fare, di là a me. Allora, il piede l'ho tolto dalla Turbo 2001 che c'era quelle macchinette, buono, e l'ho messo quello. E allora dai, allora già va bene, perché poi lo fai al buio e perché hai la foga di provare, quindi lo fai. Dovesse cascare, no, ma che piovendo lo fai. Ho detto, il lavoro che ho fatto, sono stato premiato. Certo, quando fai una cosa ed è poi, guarda, io dico sempre, faccio lo sforzo, però quando vedo le soddisfazioni, quando vedo il risultato che è ottimo, me lo sforzo lo dimentica di tanto, perché un conto è quando fai la cosa e poi va male, allora non va bene, però quando fai lo sforzo, anche ore di lavoro, e poi ti esce, hai un buon risultato, quindi ci sono problemi, è tutto ripagato. Perché se è vero, l'altro giorno era la strada di Stintino e arrivava tranquillamente con un portatilino che c'ha 2 watt. Lo so, magari ha molto guadagno con l'antenna, magari ha molto guadagno, non niente di strano che abbia molto guadagno. In ricezione diciamo che lo metto, tu ricevi bene? Sì, sì, ricevo benissimo. Addirittura quando ho spellato il cavo per fargli il PL nuovo, ho notato una cosa, la calza è di rame. Con un tipo di RG58, sì, il rame già, quello arancione, non quello grigio, vero? No, rosso rimane, proprio color rame. Lo vedi. Guarda che ci sono tante piccole cose che magari danno risultati performanti, ma piccole semplicità che magari ci sono dei produttori che qua che lo vedono e cioè che lo curano e hai risultati. Come quella discona che ho io, ti ricordi che gli ho detto che gli ho fatto che l'ho messo io alluminio? Adesso è un'altra antenna, ricevo tutto. Cioè, ma quando vai per 10 euro, ma falla pagare 10 euro in più, no? Però cioè uno rimane soddisfatto, in quel modo devo stare io a prendere, a mattanarmi la testa di cosa può essere. Sì, diciamo che hai trovato l'inghippo giusto, dai, è andata bene. A volte invece ti rammattaneggia vero, lo gabbio non riesce a comprendere il perché delle cose. Vabbè. Poi, guarda, l'elettronica è una cosa che non si gridi, ma è una gazzarda. Io adesso sto lottando con questo microfono che ho in macchina, che ogni tanto esce e ogni tanto non esce. Ne ho messo l'aria spray, ne ho messo lo spray per contatti del PTT. Non c'è niente da fare, ho controllato tutta la cavetteria a casa, anche nel PL che attacca al baracchino, nell'attacco del microfono che attacca al baracchino, niente da fare, tutto a posto. Non capisco cosa sia, se non è il cursore. Il cursore diciamo è la slitta del microfono già. Tu lo so cosa fai, lo apri. Puoi provare col tester, li metti, vedi, li lasci in continuità, lo lasci in continuità e vedi se toccando qualcosa, può essere anche qualche saldatura fredda, qualche piccola saldatura, però devi controllare col tester, nel PL lo metti diciamo nel pin, vai nel portante, alla portante, dovrebbe essere il capo il giallo e il nero. Lo provi da lì, però quella è la dritta. A volte parlando esce e a volte manca, così, parlando spesso. Sì, quella è la dritta già, quella è la dritta. Io l'ho cambiata a me che me l'ha dato l'MV4, cioè me l'hanno regalato e me l'hanno regalato anche la dritta, capito? Quindi l'ho sostituita io ed è quello, perché a forza di usarla schiaccia, a volte prende e si consumano i contatti. Vabbè. Ma questo qui era nuovo il baracchino, quando me l'ho cominciato a mettere in macchina, nuovo. Lo so già, però anche nel modo in cui si schiaccia, dai, a volte fai troppa forza e può capitare che se roba elettronica è così già, magari è roba di usura, neanche difetto, ma è roba di usura. E mi dispiace perché quel microfono c'è bene veramente. Sì, già te lo controlli col tester, ma ne hai il tester? Certo che ce l'ho. E allora domani te lo smonti, te lo porti a casa e te lo controlli, guardi la continuità, ti cerchi qualcosa col puntale, ti cerchi qual è la portante, qual è il microfono, fettalo tu. Così farò. E più che così non puoi fare. Solo te comprare un microfono. Ah, oh, che quello della Magnum è buono il microfono. C'è una capsula allucinante. È positivo. Adesso quando ho 2 minuti liberi prendo e guardo. Ho procurato 2 capsule di citofono. 2 capsule di citofono, devo fare una prova con un microfono originale. E quelle sparano forte. Devo provarlo. Ne ho 2, una diversa dall'altra. E poi proviamo a vedere come. Scusa, vogliamo vedere come escono. Vogliamo vedere come escono. Gli affitti gioco. Tardi si è tornato. Le 7, no? Le 7. Le 7 già. Vabbè. Adesso domani sono tutto il giorno fuori, rientrerò minimo a mezzanotte e mezzo domani, se non puoi ubicarlo, è un problema, cioè non è un problema, è bello, però è questo periodo qua. I carri? È positivo sì, domani sono a Pierfugas. Io ho pensato al carnevale estivo di Portotores quando ho sentito delle sfilate che fanno nei paesi e cose. Ho detto, ma quando mai in casa non lo fanno? Tira bombe di gente, oltre a quelli del posto, tiravano anche i turisti. Qua quando ho sentito devono rifare quello estivo là quest'anno. E rifaranno il carnevale estivo perché hanno rivoluzionato la Provocco, quindi. Rifaranno, ci sarà di nuovo l'edizione del carnevale tipo di Porto Torre sta quest'anno, almeno così si vocifera, poi non lo so. Buono, una buona cosa. Perché da quando ha cambiato il sindaco, non so se sia quello, però non hanno più fatto nulla. No, non è il fatto del sindaco, già non c'entra niente, già. E io non lo sostengo, però il sindaco già non c'entra niente. Non sono un sostenitore, però quel che è giusto è giusto. No, non c'entra niente. E diciamo che ci sono stati problemi con diciamo che un'associazione e non si è più fatto niente per quello. Poi Provocco a Porto Torres non ce n'era, cioè c'era, ma era in mano a chissà chi. Quindi quest'anno l'hanno rifondata, hanno messo un po' di persone che sanno organizzare, quindi dovrebbero rifarlo, così si vocifera. Ben venga, se lo rifanno ben venga, è una cosa bella, dai. L'ultima volta era quando c'erano quei cavalieri che hanno criticato, che dice che non ci facevano nulla nel carnevale, eccetera, eccetera. L'ultima volta che l'ho vista è quella volta lì. Ragazzi, sono buoni, loro a criticare e basta. Sono buoni solo a criticare e basta, se invece sarebbero stati un pochino più, diciamo, più in collaborazione, più collaborativi i cittadini, se avrebbero messo un euro a famiglia, lo so, sarebbe uscito. Una cosa assurda. Un euro a famiglia basta. E visto che è tornata quella donna che il marito ha ammazzato i genitori, eccetera, eccetera, che lei era in coma, adesso si è ripresa. Sì, ho visto. Ha visto il telegiornale, i bambini, i figli, poverini. Cioè quella lì ha visto i figli nascendo, gli arrivati dopo di un anno. A quello l'avrei preso, vabbè. Quello in galera già sta passando brutti quarti d'ora, fidati che quello in galera, quello ci marcisce in galera, e quello ha compiuto 2 omicidi, quello marcisce in galera. Tu non sai cosa gli fanno a quelli che toccano le donne, che ammazzano, eccetera, eccetera, non lo sai, i carcerati stessi puniscono. E quello già in isolamento, già, non ti preoccupare. Ma se ricapita Germano gli fanno gli faranno anche a lui un servizietto e però lo sai qual è il fatto, che anche in carcere non è più come prima, perché prima sì, adesso stanno pensando a uscire, quindi lo fanno cantare, lo fanno fare, meno che non trovi qualche dattolano che proprio è di quelli, però altrimenti quella gente lì la mettono in isolamento, capito? La mettono in isolamento e ciccia. E per quanto tempo? Lo mettono in isolamento un periodo, poi lo mettono insieme agli altri, non è che lo lasciano sempre in isolamento. No, vabbè, lo lasciano 2 o 3 anni in isolamento, la te li fai però. E è scippato, eh? È scippato. Tu conta 2 o 3 anni solo. O io che morirei in carcere, non sopporto stare chiuso, è più forte di me. E dillo a me, dillo a me, io lo stesso, a me stare chiuso non mi piace, non riesco a stare in casa, cioè io potrei mai 1 o 2 giorni in casa, ma pure uscire. Beh, basta, uno si deve comportare bene, dice, ma avrà le sue ragioni, sì, ma tutte le ragioni che vuoi, tu non devi, cioè non ti puoi scagliare contro le persone, per cosa, ma lascia perdere, dice, ma loro mangiano terra, e vabbè, loro mangiano terra, non è così, no, è rovinato una famiglia, è rovinato, miserabile, dice, ma io qua, ma io, perché poi senti 1000 ragioni, no, 1000 discorsi, ma per cortesia, ma per piacere, certe cose meritano silenzio e basta. E infatti i genitori sono scesi per difendere la figlia che l'ha sentita grida, è normale, qualsiasi genitore lo farebbe. Esatto, poi era brava gente, no, dico le persone, era veramente brave persone già. E lo so, ma tuo marito che ha trovato è scelto di gabbo. Ehi, è scelto di gabbo, quelli sono i raptus di follia, le cose, la gente magari, non si sa mai come reagiscono le persone già, comunque, meglio non esserci mai in mezzo, di cura che tocca, davvero, di cura che tocca. Io ho visto una volta questo qua che con la Roma, con la casa, ne ha tagliato l'orecchio, a casa questo qui, c'ha l'orecchio in terra. Abbiamo dovuto recuperare e portarlo in ospedale in mezzo al ghiaccio per riattaccarlo. Lo vedi com'è la cosa. Non fa, ma tu ne vuoi tagliare, c'è una bassona, ma sono buffonente, ma no che se mi scendi di capo a vero. E guarda cosa sta succedendo, oggi Aurizzano, quella di Aurizzano che ha ammazzato la figlia e poi si è buttata, quando c'hai il nervoso, devi buttare tu al terrazzino, no, per entrare tua figlia. Ti butti tu al terrazzino e la fai finita. Quella a Roma, questo qua che hanno preso, hanno sparato, hanno fatto col coltello, pieno di randaggi. E non l'hai visto ultimamente che cosa stanno facendo? Stanno fermando la gente e gli rubano il cane, di razza e se ne scappano. Fanno quei furgoni, rubano il cane, lo caricano e se ne scappano. Mi da farlo. No, mi viene la scena, guarda, mi viene a ridere pensando se lo fanno a me. Mi viene da ridere, perché io lo so, se io lo lascio un. Io glielo lascio, poi non lo so se riescono a seguirsi in macchina loro. Io glielo lascio, però lo mollo. E altro c'è il Puglio. Certo c'è il Masin, sorte anche adesso a chi va a carezzare, infatti un gozzo se qualcuno gli vuole far male che se ne accorge. No, io li lascio, lungo prenditelo. Poi mi va, scusa, mi è venuto a ridere, però mi immagino la scena. Immagino solo la scena già. Ma si attaccano a questi barboncini, quelli piccoli come si chiamano, i volpini, tutte queste razze qua, capito? Sì. Ebbene, c'è lo sponsor ad attaccare un Rottweiler, a un coso, a un fattore tedesco, a un Opperman, beh certo lo sponsor ad attaccare quel camion. Si mangia furgone, Arrivederci, se riesco a metterlo dentro, poi dentro, qui vedi allora uscendo dal furgone correndo. È come quel cane che avevamo perso con Fava, hanno chiamato il tipo. Cioè, ma quando mai un cane, adesso tu spiegami una cosa, no? Questo cane, quel, cos'era? Un terrier, un... il cane aveva perso questa ragazza, prima l'avevano visto a Canica, poi a Sorso, poi a Senduri, poi a San Camillo, e da San Camillo questo cane è andato e l'hanno trovato a Tizi. Cioè, ma come non ti fa la domanda? Questo che quel cane l'hanno portato lì, non può andare un cane da solo, cioè da San Camillo a Tizi, ma stiamo scherzando? Probabilmente poi ce l'ha ripresa e te l'hanno mullato. Ma stai scherzando, che quel cane secondo me lo stavano usando per fare qualcosa, dice lo vedevano correndo, ma lo vedevano correndo, ma è possibile che un cane vada, che vada da, cioè, da Sorso, da solo, perché hanno visto a Sorso, e poi l'hanno ritrovato a Tizi. Ma per piacere, ma stiamo scherzando, l'avrebbero trovato sciolto. Vabbè, già ci sono i cani che magari però fanno il coso contrario, vanno a trovare il padrone quando si perdono o quando li abbandonano, ritornano a casa, capito? Fanno chilometri e chilometri, già l'ho letto di queste storie, però non sono cose, diciamo, di tutti i giorni. Sì, ma se la padrona abita o cappa, no? Se la padrona abita o cappa, il cane lo cappa, prende, recupera quel cane che hanno perso. Quel cane che hanno perso, quello è di Lopez. Cioè da Sassari è arrivato a San Camillo, a Sorso, e poi è andato a Tizi. Questo cane era da Natale in giro. Figurati, chissà com'è che si può varare senza mangiare, senza nulla. E dice era magro, ma non era... cioè in genere un cane quando fa tutti quei chilometri ha ricolpato i consumati, non hanno scritto nulla. Cioè già un cane quando rimane in giro così, i polpastrelli si consumano, poi pensa tu l'asfalto, il coso, i cani non mangia, ma lasciamo perdere, che quello era cane custodito da qualcuno, era cane che aveva qualcuno, si è visto un braccato e l'ha mollato. Era più sicura, ma stai scherzando che usi, di brutto. Di brutto, no vabbè, eppure qualche giorno prendo e provo a farmelo rubare il mio. Sì, oh yeah. E lì c'è più sugato a pezzarini. Guarda, poco fa visto sono scoppiato a ridere. E tu mi immagino la scena. Ma ve lo immagino. Sì, sì, sì. Oh yeah. Io sto pregando che trovino quelli che hanno scuoiato quei cani, hanno messo la taglia di 5.000 euro per chi li trova, capito? Un'associazione di animalisti ha messo 5.000 euro di premio per chi trova, chi ha visto praticamente chi ha fatto questa roba. Comunque stanno visionando le telecamere che c'erano nei dintorni, vedrai che li becca. Certo, no, ma io lo so che avrei fatto invece, quei 5.000 euro, cioè trovandolo io chi è, io quei 5.000 euro non avrei neanche voluto, l'avrei dato in beneficenza a qualche canile, a qualche cosa. Però è importante, cioè 5.000 euro, 5.000 euro io non, a me non me li fate in tasca, io li lascio al canile, e tu prendi e... Poi guardate che lo trovino, perché bisogna fare un gruppo, una situazione per trovarli, no? Bisogna trovarli e prendere i 5.000 euro, darli in donazione, comprare crocchette, cani, queste cose qua, medicinali, a qualche cane che ha bisogno, e chi l'ha fatto fruttarlo, legarlo dove ha indicato il cane, no? Dove ha trovato i pezzi, dove l'ha scoiato, preso un bel pezzo di filo elettrico, no? Un bel pezzo di filo elettrico, il cuoio, un pezzo di cavetto d'acciaio, metti un bel po' di sale sulla schiena e frusti, e poi li butti il sale, come quando fa la carne, no? E frusti, fino a quando non dice scusa, che dopo secondo me lo dice pure fruttate, però deve soffrire almeno un paio di giorni. Ehi, ho capito, sì, ehi, vabbè, hai accogliato come ti ha accogliato il gatto. Pezzo di merda qua, scusando la frase, ma è... uno che fa una cosa del genere proprio il cuore non ne ha, sentimento non ne ha. No, già, se tu lui lo scuri subito non soffre, capito? Tu devi fruttarlo, bisogna fruttare a cavo acciaio. Però se non ti fa male il cavo acciaio, quello con le puntine un po' usato, e tagli un pezzo da 60-70 cm giusto il pezzo di impugnatura, e comincia a frocciare forte la schiena nuda, e inizia a fruttare forte fino a quando lo vedi che si piscia lì, fino a quando lo vedi si piscia che discende tutto la pipì, no? E si fa e si caga. Allora lo lasci, lo pulisci, lo fai riprendo e poi rinizi, fino a quando lui si deve pisciare almeno una decina di volte, e poi lo lasci andare. Vedrai che quello quando vede qualche cane, prende con i canterelli e gli fa la macumba al cane. Ma di chi sono capo deteriorato, quelli che si sono sfilacciati tutti, questi rubugni di burro, cioè che frustano. Sì, di quello bello usato, di quel cavolacciaio bello usato, con qualche mezzo che magari ha avuto qualche piega, no? O qualche sfilacciatura. Mi fa un pezzo da 60-70 cm, giusto per prendere bene la via dove arrivare. Lo sai come lo fai? Nuovo lo fa pure. Oggi è un attimino che devo andare un attimino in bagno. Ehi, ma quello lì secondo me è macabro, che l'ha fatti pure a pezzariddi. Ah, è quello lì l'ha ripreso. Va, lascia perdere, arrivo subito. Vai, tranquillo. Beh, già. Eccomi qua. E niente. Voglio via. Sono piazzata così con l'antenna, l'ho provata, adesso l'ho attaccata, vabbè, però va bene, è bella. Come struttura, che non me la ricordo. Già, è assurda, ha una struttura assurda, in alluminio, fatta in alluminio da 0,8, quasi un centimetro il basamento, ti mando la foto, è assurda, ma robustezza è alla carica blu. Alla carica blu e poi a tutti gli stili, ma poco roba ad altri tempi, basta perdurare già. Radiali quanti ne ha? 4. Come la mia KK. Vabbè, sì, sono quelle cose che facevano prima per durare, adesso le cose che fanno adesso le fanno per cambiarle, per vendere. È positivo, no, guarda, per 40 euro, per 40 euro, cosa pretende? No, ma quella la prendo e la smonto, la tengo, diciamo, per collezione. Per riserva, in caso qualcuno che non andasse male, cosa? Io guarda, a 40 euro avevo venduto una Grand Prix nuova, mai usata, che ce l'aveva in garage, questa vico io, a me l'ha data. Poi ho sentito questo CB dei paesi e gli ho detto se gli interessava l'antenna, e lui mi ha detto quant'è che l'avevi, gli ho detto 40 euro, è venuto e se l'ha presa, capito? E stava appena piazzando una stazione e se l'ha abilata subito. È positivo, io sto vendendo una Sirio, una 5 ottavi, una GPE, mi sembra, o GP o GPS, una 5 ottavi, la sto vendendo, una cinquantina di euro, è nuova, ma nuova, c'è ancora la scatola. E magari qualcuno nuovo che entra, che se la deve piazzare, se la biglia, 50 euro non sono nulla. No, vabbè, ma io non è che la metto in vendita, ce l'ho e se serve a qualcuno la si vende. Se serve a qualcuno la si vende. E sto vendendo quella, ne ho anche qualcun'altra, che no, perché alla fine sì, c'ho il posto, però mi va neanche di riprimi a casa il tetto di antenne. Infatti adesso ne smonterò qualcuna e mi terrò la Grazioli, l'antenna il Dipolo e quella delle V e delle U per l'ascolto e basta. Se però diventa una centrale, una centrale elettrica. Sì, ebbene, anzi sì, sicuramente non cioè, a me piacciono, però non va neanche bene, non va neanche bene. No, ma quando c'hai, guarda, quando mi tengo la graziole, c'ho il commutatore, l'antenna buono, un Daifla che mi ha regalato Claudio. Quando mi commuto le due radio con un'antenna e tengo un'antenna UHF, va benissimo. Cappa, e infatti, non c'è bisogno di attendere. Vabbè, tu vuoi fare le comparazioni, ti è tolto la soddisfazione. Sì, vabbè, a me piace, perché fare radio anche quello, mi piace anche molto usare le antenne, cioè capire anche le differenze tra un'antenna e l'altra, perché uno dice sì, tra antenna e modulo, ma a me piace anche fare quell'attività di prova, di tappaggi, queste cose qua, e lo faccio, quindi no. Poi è bello anche provare i punti, capito? Provare anche i punti diversi, le altezze. E appunto. Sì, ma questa Firenze 2 che ha preso, che cosa risulta? Una 5 ottavi? Yes. Vabbè, io ho usato anche la Grand Play, guarda, la Grand Play andava benissimo, aveva il radiale 2,75, la mia era della Lem, aveva il radiale 2,75, sparava che cosa male, anche arrivava 9,5 nel Sacro Cuore, a casa di mamma. Da lì arrivavo bene ad Alghero, però aveva questo coso che disturbava i televisori, boh. No, scusa Gianni, mi hai detto la Grazioli o la Firenze 2, scusa. Ma io, che ho avuto io? No, tu mi hai chiesto della Grazioli cos'era, 5 ottavi o la Firenze 2? La Firenze 2? No, negativo, la Firenze 2 è una mezz'onda, è una mezz'onda, si chiama Firenze 2 Aurora, quella che ho io. Ah, però va bene, dai. È un'antenna che allora andavano bene, quelle antenne lì erano rinomate. La Firenze 2, la Stardaster. Sì, no, questa qua non è la 5 ottavi, questa qua è la mezz'onda. La mezz'onda si chiamava Firenze 2 Aurora. Firenze 2 Aurora. E ha quattro radialini piccoli. Ha quattro radialini, saranno da 50 centimetri. È particolare come antenna, è una carica bella, ma se tu la vedi è fatta proprio bene, bene, bene. E invece mi stavano dicendo, l'antenna che ho preso per la macchina, capì, è data per 600 watt. E Marco mi stava dicendo che ha letto delle recensioni che praticamente uno ha attaccato 100 watt e le ha sciolto tutto, non la carica, ma le ha sciolto il coso del copre l'avvolgimento lì. Ma guarda già, ci sono tante cose da vedere, perché secondo allora una casa costruttrice non è che ti dice, non è che prende e può pubblicare il watt che vuole, diciamo, di digerimento di antenna, non è che un'antenna sopporta 100 watt, sopporta 100 watt di uscita e le mettono 600, no. Può darsi che sia 600 watt in PP in banda laterale, quindi se un'antenna è 600 watt in PP in banda laterale, lei è almeno 400, diciamo fa 400 AMFM, fa 400 AMFM, in PEP si parla, poi continui, può darsi che sia anche 150 watt, è vero, è vero, loro sicuramente hanno dichiarato i watt in PEP, cioè massimi istantanei a impulsi, perché la banda laterale, come tu ben sai, va a impulsi. Magari loro hanno dichiarato 600 watt in PEP a impulsi, 300 watt in FM massimi, è in AM massimi, e 150-120 watt continui, mi segui? Sì, poi non è quella della marca mia, mi sa che è un altro tipo che assomiglia molto, perché la fa la Midland, la fanno diverse case con l'antenna lì, marchiata diversamente, ma forse sono solo dei cloni, basta, tutto lì. Beh, il clone è sempre un clone, poi l'originale è tutto da vedere, l'originale è sempre una cosa originale già. Però ripeto, per quello che sono venuto a conoscenza io, cioè, quando loro queste antenne qua che le dichiarano anche per la reazione di vicio io è dichiarata 5 kW, la reazione di vicio è dichiarata 5 kW, però in CV, capito, a impulsi, lei sopporta 1,5 kW in BP, sono 1 kW continui. Beh, la Turbo 2001 c'ha questo di buono, che regge 1 mW, quello sì, infatti la usano nel camion perché regge molti watt. Vabbè, gli ho tolto il PL a quella che c'avevo in macchina, gli ho tolto il PL e l'ho messo al posto di quello che c'era, di quel PL che hanno la plastica tutta attorno, l'ho tolta con la taglierina, l'ho tolta e poi ho tagliato il filo e gli ho rifatto il PL. Adesso è un bombo. Cos'ha le reggi 58 già? Ma lo spessore mi sembra leggermente più largo, appena, non assai. Non l'ho letto, capi, perché ero senza occhiali, infatti stavo cercando di guardarlo, però non è un RG 58 normale, perché ti parlo che ha una calza che è tutta quanta in rame, capito? Non è come l'RG 58 che ha quella maglia tutta intrecciata, argentata. Questa qui è color rame, color rame, e non è intrecciata, rimane dritta, capito? È positivo, positivo, e lo vedi, forse che sia un capo diverso che conduca meglio. Oh, no, perché il capo vuol dire tanto, il capo, cioè il capo va sempre, è sempre un'impedenza, quindi il capo vuol dire tanto. Cos'è, 4 metri di capo? Non l'ho misurato, ma penso sia 5 metri, non 4, perché ne avanza un po', invece l'altro non me ne avanzava. Se rimane un po' sotto sedile, capito? Allora vuol dire che in base alla carica ci voleva il cavolo, in base alla carica che ha ci voleva la lunghezza. Sì, la cosa dell'antenna è quello, quando dico mi si è sciolta l'antenna, sì, ma tu ti sei sciolta l'antenna, ma ti hai guardato la specifica dell'antenna, sì, tiene 1 kW, ma non è vero, perché io ci scommetto anche la Turbo 2001, la danno, mi sembra, per 3000 watt, così è, se non sbaglio. 1500 in BP, la Turbo 2001 tiene 5-600 watt, è poco che se va per l'antenna di macchina, 5-600 watt continui. Guarda che non è poco, è tanto. È tanto, sì. E che si rimuove in macchina 600 watt, ma la macchina ce l'hai tanto per passare, per accompagnarti nei posti, quando vai lontano, che per vedere chi arriva di più, capito? Per toglierti queste soddisfazioni. Ma con chi s'antenna non fa zia, che si staccava a cazzo, ogni volta mi faceva cagare sotto, sentiva brum brum brum, cazzo di azzo. Sì. Adesso io lo so, la faccio a Pasquetta, se Dio vuole. Se riesco a andarmene a fare una scampagnata, mi porto il 450, mi porto il Kingwood, mi porto la mezz'onda, la Sirio, quella senza radiale, un cavalletto, attacco la batteria della macchina 450 e provo ad andarmene a tempio. Ho visto un botticino ieri da mezzo lontanuccio, e ieri ho portato la bambina per il carnevale e stavo guardando, e in quelle zone lì, tempio, dai, zona alta, e provo a fare qualche collegamento a vedere. Qua, anche se vai a Usilo, i collegamenti li fa. Io ho parlato da Usilo con come si chiama, a Basanta. Con la Basanta, e l'ho parlato con il padrone del baracchino che c'avevo io, perché l'aveva costruito lui, l'aveva modificato lui, io c'avevo quello modificato, te lo ricordo. Ed era quello che aveva modificato il mio baracchino, mi ha detto una bomba, sì, sta arrivando a 9:20 qua, ma dove sei? Non sei a Sassari, vero? No, gli ho detto, sono a Ugine. Ah, ecco perché, cavolo, sta arrivando una bomba. Positivo, sì. No, guarda, se riesco a fare una cosa del genere, intanto mi porto l'apparato, ma è più originale, giusto per fare qualche prova, qui tu ci ha accordato l'antenna, tutto quanto, e provo a fare queste situazioni qua, mi cerco un bel campo aperto, e lo faccio. Eia, ma sotto i vari, dico che si apparecchia. Beh, già, devo arrincurare questi campani, scusate la parola. Beh, certo non mi devo, non vado, non mi metto faccia a poco, però faccio le comparazioni. Mi cerco gli ascolti, mi metto le vado in cose in 7000 e gli metto le cose, le radio AM, le broadcasting, come si chiama. Guarda che prima in 40 metri parlavano tutti lì, c'erano anche i piratoni. Sì, già lo so. No, però aveva interessato la 27, aveva interessato la 27. E niente. Lui già si sente qualcosa ancora. Si sente qualcosa ancora. La 6666, c'è ancora qualcosina, tanto un altro qualche fischio strano. Cioè io fai dal 7000 in poi in ascolto. Ieri mi ha ascoltato un bel QSO, c'era un bel QSO e mentre mi guardavo il cellulare me lo stavo ascoltando, ma chiaro, poi ho provato tutto, i 10 metri, 30 metri, tutto piglia con quell'antenna, tutto, capito, in maniera proprio bella. E tu c'hai anche il punto buono già, vabbè, se non lo prendi tu di lì, allora, l'antenna, guarda che la 58, guarda che la 58 è data a 26, guarda, dai 26, dai 25 fino ai 30. Però prende tutto meno, cioè magari invece di arrivarti in un Santiago, per esempio, io ho affidare a me Radio Amatori in 7000 da arrivare a 9:30, 9:40 a fondo scala, ma io lo dicevo a fondo scala veramente qua, anche la mattina a volte prima di uscire l'accendo verso le 6:30, le 7 l'accendo e sono in 80 metri e li ricevo benissimo, 9:30, 9:20. C'è gente così presto? Sì, dalle 5:30 c'è gente, dalle 5:30, dalla Sicilia, da Napoli, sono prestissimo, dalle 5:30 se meno un quarto. Fatti un gonfio, io prima il 27 rimanevo, facevo tutta la notte, rimanevo fino alle 7 di mattina. Prima già si facevano quelle cose, adesso non c'è più nessuno già, cioè non è non c'è più nessuno, non c'è più voglia, non hanno più voglia, non c'è più spirito. E considera che prima la radio era come il computer, adesso c'è gente che rimane al computer fino alle 7 del mattino, alle 8 del mattino, e prima si rimaneva in radio. Perché rimorchiano al computer, eccetera, capito? La radio purtroppo non ci sono più donne, ma prima c'erano anche le donne. Lo so. È un casino, ormai la donna ce l'abbiamo. Non c'è bisogno di altre. No, non dico per lui, per la gente, è per attirare i ragazzi, capito? Non per lui, per carità, era giudice Druppo. No, te lo so, non facciamo per noi. Ma tu adesso fai una osservazione. Su WhatsApp dove si mandano i messaggi vocali tutti quanti, no? Sì, i vocali, scritti, quasi sempre i ragazzi mandano i vocali. E non è come fare una radio. Infatti, mio figlio per dire manda messaggi vocali. Quando a casa sta sempre avanti e indietro con questo telefono, parlando con le amichette. Lo vedi, ed è come la radio. Cioè, è come la radio. La radio, solo che altre radio vanno un po' masticate, ti devi attentare a fare le antenne, devi però in radio ti ascoltano tutti. L'inverso c'è quello, che gli altri ti ascoltano, invece il telefono che ti ascolta, parli tu e basta con la persona interessata, basta, tutto lì. Quello è il bello, capito? Il telefono prende ogni foto, devi stare, ma ti cupi, mi cupi, non mi cupi, non ti segnati proprio là. vabbè, l'innovazione. Comunque il computer ha rovinato tutto. Ma sì, ha catapultato tutto quanto. Adesso i ragazzi, invece di conoscersi come si faceva prima, che andavano in discoteca per conoscere qualche ragazza, qualche cosa per metterti insieme, adesso vanno su internet e ce ne sono a go-go a disposizione, non per essere maschilista o cosa, però ce ne sono. Addirittura anche a me mi scrivono molte volte, ciao, posso chiederti l'amicizia, e io la subì lì, basta, non li voglio sapere. Stai attento a quelle cose lì, già. Stai attento a quelle cose, che sono una mezza truffa. Quelli non sono uomini, quelli sono uomini che spiano sulli. Quelli sono uomini, già, non sono donne. Qua in internet c'è da apprendere a stare attenti, ma attenti, né? Cioè, yes. Già lo so come funziona. Ti mandano qualche filmato, qualche cosa di loro nude, poi ti chiedono di spogliarti, di fare queste cose qua, capito? E poi ti ricatto, ti fanno la fotografia, ti dicono adesso se non mi dai i soldi lo metto su Facebook, su Instagram, eccetera, eccetera, e dico che sei un maniaco. Lasciami a Falcone? Ah, hanno fatto uno che conosciamo. Hai detto lasciami a Falcone, buonasera. Buonasera lì, che cosa pipistrello stai facendo? Salito qua, così, che ci avete detto, che racconto. Noi ci siamo sempre, dobbiamo tenere la frequenza in alto. Ciao, fate bene, comunque buonasera, ciao Gianni e ciao Gavino, avanti Gavino. Ciao Franco, buonasera, come va? Bene, più di così non potrebbe andare. Positivo. Ma tu abiti per la Meraleco Centro per caso? Non ho capito, scusa. Tu abiti a Sorso per la Meraleco Centro per caso, nella via che scende giù per l'Eco Centro? No, negativo. Io sono la via, cioè diciamo, quasi a Sino, lì dai, in alto. L'Eco Centro è giù, alla fine di all'uscita di Sorso per le Casse Sardo. Quindi c'è una storia che porta la Sorso a Sennuri, una storia fino a fine. E lì c'è un altro, c'è, non so se l'hai mai sentito quello lì, Falconetto. Sì, Falconetto, lì. Antonio Giuseppe. Non l'ho mai sentito, pensavo che era altro, vabbè, niente. Avanti Gianni. Io già lo so. Lui c'ha le macchinette in Formula 1 davanti, vero Fra? Una ce n'è, ancora c'è sopra quel tetto. Sì. E quella che hai visto è una Mantova 1, quella lì. Una cosa, Franco? Quell'antenna che tu hai visto lì, che mi stavi dicendo se ero io, quella è una Mantova 1. Sì, è una Mantova 1 quella. Certo. È vecchia, vecchissima. Pari nuova. Sembra nuova. Se tu le cose le prendi, ogni anno le scendi e le pulisci, le fai belle e rimangono sempre nuove. Sì. L'ho vista. Fatelo convinto che era la tua. No, vabbè, meglio così. Mi è arrivata quella Firenze 2 in fra. L'ho provata poco fa. Che fa? hai visto? E tu avevi paura che non ti arrivava? Sì, vabbè, capita, ma forse una ghetta arriva dalla Sicilia. Se io come ti chiedo arrivi prima. Già lo credo. Infatti non è che siamo tanto distanti, non è che siamo. Vabbè, comunque già è importante che sia arrivata, poi il resto non conta. Avanti Gianni. Ma i corrieri stanno cominciando a fare schifo, perché anch'io sto aspettando un'antenna e la stavano rimandando indietro dopo che avevo pagato tutto quanto. La stavano rimandando indietro, la stavano rimandando. E ha chiamato qualcosa, diciamo, al venditore, il venditore ha chiamato a Martolini e Martolini l'ha consegnata subito. È un bel casino stanno diventando. Io c'ho un coso, già era una cavolata, erano intorno ai 6 euro un connettore che mi serviva e non mi è mai arrivato, mai. Figura. E quello ti potrebbe arrivare anche per posta, secondo me ti lo mandano per posta. Sì, stanno diventando un po'... A me mi avevano smarrito un alimentatore da 50 ampere che avevo già pagato e tutto. E quello mi dispiaceva, me l'hanno smarrito perché mi è arrivato questo alimentatore ed era destino. Vado ad attaccarlo e sento tutto un fumo. No capo, questo qui c'è qualcosa. L'ho staccato subito, ho chiamato il venditore e mi ha detto di rimandarlo indietro che me ne mandavano uno nuovo. Questo nuovo non arrivava mai. Lui l'aveva spedito, però si era smarrito nel viaggio. E ho chiesto alle poste cosa si poteva fare, tutto quanto, niente, dice non c'è niente da fare, non si può fare nulla perché non risulta. L'ho detto a un amico mio che era vice direttore alle poste, adesso in pensione, e in poco tempo me l'ha fatto arrivare a casa. Ecco, un casino, tra poste e corrieri, i corrieri non ti trattano bene la merce. Le poste se la perdono e cosa devi fare? Finché che c'è una cavolata di soldi va tutto bene, non va bene lo stesso, però diciamo per di poco, ma quando una cosa comincia a costare 100-200 euro comincia a essere già una cosa, un fastidioso lavoro per fare, e purtroppo a volte succede. Avanti Gabriele. E il positivo, a me mi dà fastidio anche quando sono 3 euro, a me mi dà fastidio anche per 3, ma non perché sono fecco, è perché 3 euro uno, abbiamo fatto l'altra notte il tuo discorso, no? Che uno prende i soldi, se li conserva con cura, se non si prende un caffè per tu allora devi mandare. Guarda se sgarrano i corrieri di Amazon quando mandano la roba con Amazon. Allora, se dovessero sgarrare con Amazon perdono l'appalto, quindi la roba che tu ordini da Amazon arriva sempre, perché Amazon li fa fare via, Amazon li gamba, no? Ormai se tu compri qualcosa da Amazon tu nota che arriva sempre in un giorno e mezzo, in 2 giorni. Sì, è vero, però te la lasciano giù, te la mettono giù, se ne vanno. Se non ti trovano in casa ti la lasciano giù. Vabbè Gianni, però c'è anche da dire una cosa, che questa gente qua a volte va in spiaggia mia a cercare il destinatario. Io ho visto corrieri andare in spiaggia a cercare la gente perché li chiamano e mi sono in spiaggia a Platamona, corrieri alla rotonda scendendo in spiaggia per consegnare un pacco. Quello non è giusto. No, quello lì no. L'avrei detto meglio ritorna perché non sono a casa, tutto lì. No. Io invece gli sono andato incontro al corriere perché dice che è passato, non mi ha trovato e giustamente lui abita via Valdenda, a 2 passi da casa, mi ha detto di farmi trovare che me lo consegnava e me l'ha consegnato via Valdenda il pacco. Beh sì, anche io a volte al quello dell'SDA, che lo conosco molto bene, che a volte prende quando lui vede Baltano e adesso lo porta lui ed è a Porto Torres, capito? Allora mi chiama, guarda capì che c'ho il tuo fatto, va bene, vengo a Porto Torres se me lo ritiro. Quindi sono sicuro che c'era lui e posso anche andare invece di aspettarlo a casa, posso fare gli affari miei, poi lo vado e lo recupero io a Porto Torres, mi segue. Però loro con Amazon hanno pochi conti, perché se la spedizione ti dice che un giorno, che due giorni ci deve essere, e poi Amazon ti dice anche l'orario non ti potrebbe arrivare. Avanti Franco. Ecco, vabbè, finché conosci qualcuno che arriva, che ti chiama, va tutto bene, ma se non conosci nessuno, dove ti agganci? Da nessuna parte. Ok, dai, volevo dirti una cosa, voglio provare un'altra radio perché voglio vedere se esce di radio, se esce. Riprendete.